c'è anche un negozio di elettronica, anche se è caro decisamente, che apre da Nieda, poi non so se sia più vicino o più lontano per te, ma è dietro Cesaraccio, non so, apre da Nieda se sei dopo. E dove c'è quel ragazzo, già ho capito. Questa è quella, va fermata. Sì, è un po' caro, e quindi ci vedo sempre pochissima gente, però non penso che avranno il coraggio di farti pagare 10 euro un portafusibile, mai dire mai comunque. E ce ne avevo uno, chissà dove li ho messi. Ce li aveva sicuramente Fusaro, ma di lì ci devo andare a azzeccare l'orario, perché se no non, anche lì non trovi posteggio. E infatti andrò da quello di Predanieda. Oppure, dato che tu sei al centro, ti prendi il tram da lì e ti porta lui, che problema c'è, mica devi chiedere permesso al datore di lavoro. E io prendo la macchina e vado, quando devo andare la prendo. I canali di contatto. Io lo dicevo per non prendere la macchina, dato che tu sei cittadino oramai. Faccio una passeggiata in trama a un orario tranquillo, faccio pure la passeggiata. E infatti adesso sta schiacciando bene questo micro. Ma non è che c'ha il ditino moscio un pochino? No, è proprio forte il tasto, quando schiacci è forte da schiacciare, infatti molte volte molla. Strano. Ma tu lo usi è alimentato dall'apparecchio, no? Sì signore. Vabbè, così è andata lì. La pazienza è la prima delle virtù. La virtù dei furti, mi guarda, adesso ha schiacciato benissimo. Sarà sporco. Qui non sono interruttori, un po' così, ecco. Il fatto che sono dappertutto oramai, li trovi sul PTT, li trovi su tutti i generi di tasti, comunque apparecchio. Mi adesso ha schiacciato anche al lato. Dimmi tu, prima non c'era verso al lato di farlo schiacciare. Forse vorrà pulito dentro allora. Ora pulito dentro, ci sarà qualche cosa che non va. E infatti bisogna aprirlo. Adesso ha mollato, vedi? 5 minuti io di tempo per poterlo aprire. Bisogna aprirlo. Una cosa strana comunque. Una cosa strana. Potresti vedere, fare delle prove anche, solo che oramai dentro è tutto piccolo, quindi viene male. Almeno si potesse aprire da sopra, ma no, è sotto e che bisogna aprirlo e togliere tutto. Sì, quello è tutto da smontare. Per pezzo e vederlo poi con calma, ricordandosi poi come si rimonta possibilmente. Quello è fondamentale. Se non ne fai due. Adesso me la scatta. Adesso stavo parlando però non ha scattato il mio, te immagini? Questo invece è il classico, però non dovrebbe avere quel coso lì. Ma lo apro un attimino, dai, giusto per pezzo di d'arietà, perché ho premuto e non è andata in trasmissione. E anche a me mi fa così. Voglio guardare come è fatto dentro questo. È un condensatore lo stesso, però tanto c'ha solo due viti. No, questo ne ha quattro. Questa è la V508. No, questo è quello da palmo del presidente. Infatti lo sto già svettando. Quindi mi sentirai che vado che prendo una vite e due viti. Vediamo cosa succede. E infatti io ce l'ho il microfono da palmo, mi l'ho aggiustato, quello che mi ha dato Claudio, e funziona benissimo. Adesso sono col microfono aperto, quindi dammi qualche minuto. Ok. Ma la pizza me l'hai fatta? No, sta lievitando ancora. Sì, sono le 8 claio. Adesso te la lascio via, ma non te la pago neanche. Un po' facciamo. Uno. Aspetta che sto avvitando il microfono, che mi ha lasciato a piedi, e ci ho buttato dentro l'anticorrosivo. Ma come fanno a lasciare a piedi il microfono? Ci sono i 40 pieni di gente. Ma poi Marco non si è più sentito. No, non ti ho sentito. Marco ce l'ho a fare. Era l'orario del caffè sicuramente, poi dal caffè, aspetta che lo stringo, dal caffè ci è uscito il dolcino, dal dolcino c'è la cena. Qualche pasticcino, fettino, due chiacchiere con la signora, e si è fatto caldo. Infatti, ecco qua, anche questa è fatta, adesso non si può lamentare. Però questa natalizia c'ha il coso, come si chiamano, il pulsante a slitta, no? Quelli vecchi di una volta, che sono anche più facili da pulire perché sono praticamente aperti, ci butti dentro l'affare e funziona subito. Mentre gli altri, quelli dei microfoni anche palmari, VHF eccetera, hanno questi micro interruttori che sono a penitenza. Io l'ho aperto sotto, nulla è variato. No, quello devi sapere tu. Se va in trasmissione, io ti sento bene. Claudio, tu lo senti bene? Perché c'è un problema ai tasti, anche lui ha i tasti PTT. Ai quale gran vai, scusate. Di 10 anni, io sempre l'uomo perfetto, non mi ha mai fatto un difetto a me. Ma lui preme in maniera pesante, no? Deve premere piano, perché uno fa da lotto, l'altro poi devi schiacciare per mollare. Io ho sempre usato, lo sto usando in VHF, ma non mi ha mai fatto nessun difetto. Natalino, adesso lo chiamo Natalino lo sfigato. Non ne va bene una. Perché come? Vero, cos'è? È cuocomane, quindi è un maniaco dei cuochi? Sì, cuocomane. E cosa le fai tu ai cuochi, Natali? Li metti subito ai fornelli o li cucini? Aspetta che lo sto aprendo. Ma non ne vado di due. Ma ne vado di due. Non tocca, c'è. Ma almeno ce l'hai lo spray adatto? Non ci buttare l'olio di macchina dentro. Beh, te metti duro, io vado a portare il bit. Ciao, buonasera a todos, a domani, ciao. Prima di andare, almeno cosa dici, come le fai alla pescatora, alla sarda? No, capri acciughe, ma sopra. No, devo fare, sì, due per uno, sono piccoli, non sono grandi. Sono grandi. vediamo, adesso chiedo a loro. Va bene, ok, allora buona cena, Clara, ci sentiamo domani eventualmente. Quando è possibile, non so se l'amico sia guarito o meno, dobbiamo fare quell'operazione. Sì, guarito, ha fatto il secondo positivo. Ah, alla faccia. È un casino, non è proprio pieno di stare a casa, tutto quello che ha da fare. Non è facile non stare a casa 20 giorni. Vabbè. No, tranquillo, già è tutto storto. Amen. Marco, aspettiamo un po'. Faccio un attimino lì, che devo chiedere. No, audio. Ho il circuito in mano adesso. Adesso li passo con lo spray. Pulisce bene già. È un buon microfono, quello che ce l'ho una vita e ha sempre funzionato bene. Bene, sta funzionando. Ah, grande, non problema. Adesso sta funzionando bene. Pulisce dopo troppo lì, sì, tutto il giorno, quindi la condensa della cucina, il fumo la si impasta. Pulisce, lo richiudo e già va bene. Vado a Natali che devo preparare il pizza, ci sentiamo, ciao. Ciao. Allora torniamo qua. Natali, non ci sei ancora? Ci avranno il microfono a pizzi. Va bene. Gianfranco, ci sei? Hola. Gianfranco? Sì, dimmi, Natali. Funziona alla perfezione adesso. Sì, no, non ho capito. Adesso che? Okay? Adesso funziona alla perfezione, leggero, leggero e funziona. Erano spurchi. Se te l'ho detto, basta fare quello. Cosa li hai bagnati con l'anticorrosivo? Spray per contatti, lo sto chiudendo. Ok, visto. Tutto bene quel che funziona bene, non è neanche complicato sicuramente aprirlo. Va bene, chiudo pure. Tanto la città chiuso. A me funziona. Cazzo di lusso, adesso piano piano lo qua funzionano benissimo i tazzi adesso so come funziona, gli ho dovuto togliere tutti i fili, tutti i contatti per togliere le viti di dentro, ma è uscito di lusso. Devi cambiare piano piano, già funziona. Mi ero dimenticato che avevo comprato lo spray per contatti, no? E quindi ce l'avevo qua. Anzi, ne devo avere anche un altro, ma non so dove è finito. Vabbè, questo lo sappiamo. Beh, fatto. Funziona benissimo. Funziona anche bene il lock di lusso. Guarda, adesso sto parlando con l'lock. Sto parlando. Mi? Prima schiacci uno, poi schiacci l'altro e lo fai andare così piano piano. Già va bene. Va bene, dai, mi allontano di nuovo. Adesso c'è il forno acceso. Non so se mi ha chiamato, sto ascoltando una cosa molto strana. Una voce. Non ho capito cosa stai ascoltando. Sono dei francesi. A urla c'è questa, senti. Non so cosa, che tipo di trasmissione sia, qualche giornalista da quelle parti, perché non lascia neanche bianco, quello che prende su, te l'ha gettata, madonna. Ma si arrangiani, dai, mi allontano di nuovo che c'è roba al forno, a dopo. Non è ancora pronta la pizza. No, ancora no. Mi sa che domani sera la faccio pure io. Cosa strana. Questi mesi sta sempre un po' di tutto. 20 e 29. Come si chiama? Il potenziometro per l'MD più 4, gliel'ho messo un nuovo. Adesso mi aggiusto l'MD più 4. Tu lo sai che io gliel'ho cambiato il mio Natale. Ma quanto vuole? Cioè quanto vuole? Il potenziometro. E mica la ciapi, usci, domani la c'è dove lo trovi. Ma Fusaro, dove vuoi che lo trovi? Mi ha aggiustato il microfono questo qui, adesso come schiaccio mette la portante subito. C'erano quegli interruttori piccolini che non funzionavano bene. Ah, io c'ho confusione con PTT, Natalino, no, io l'ho chiamato PTT. Il potente aveva sempre il suo originale, quello che avevamo messo Adriano. Vabbè, tocca smontarlo adesso il microfono per sapere da quanto vuole. Ma forse Franco me l'aveva detto da quanto voleva, solo che non c'è questo qui, ti vendono quello con i filini. Ma io glielo cambio lo stesso perché questo si sta muovendo. Adesso vedo prima se sono saldature messe male. Questo è a posto comunque, te schiaccia di lusso adesso, è leggero. Sì, prova a spruzzarli un po' di WD-40, ma li è bloccato, c'è un po' di polvere, capito? Lo fa, eh. Spruzzi un po' di WD-40, vedrai che poi si riprende, ma una puntina, Ma dove? Questi qui gliel'ho già spruzzato, lo spray per contatti c'ho proprio, che l'ho comprato l'altro giorno. E ha funzionato alla prima, tutte e due funzionano gli interruttori di ghiaccio. Sì, ma per quanto riguarda il potenziometro, ascolta un po' di WD-40, ascolta un attimo, dai, se vuoi dare dei soldi a mamma, un attimo. Va bene. Questo si muove il coso, il potenziometro, capito? Cioè si muove? Tu lo do che si muovi, compreso là, cos'è lo difetto? Allora l'abbre a Baidu, che non sia le saldature messe male. Ma com'è che per caso tu hai qualche baracchino rotto? Serve il finale 2078 per cambiarlo al Mubico, perché sotto monta 1969. No, non ne ho baracchini rotti, ne ho due soli qua. No, ce l'ho io, ho visto, ce l'ho. Ma sono di saldo, va. C'ho un baracchino vecchio, era un 34. Che qualcosa deve funzionare, c'è da cantare a pigliare, quando l'avevo fatto, e poi alla fine ho tutto incasinato. Vabbè, questo è qualche anno fa, che ero proprio inesperto, mi aggiungavo i baracchini, c'è un po' che mi arrangio, adesso me lo risaldo, e domani me lo piazzo, chi è beh? Questo l'ha aggiustato invece il microfono, questo funziona benissimo adesso. Ah, funziona bene? È leggero adesso. Ho tolto la batteria e le viti da sotto. Adesso devo smontarlo a vedere il circuito, a vedere cosa c'ha. Prova. Vedi un po', magari è da pulire mia, ma l'avevo fatto una volta. Devo sfruttare un po' di quattro d'occhio. E si è rimasto a posto. E si è bruciato. Oh, va bene Natale, che sapete se c'è anche dei bomboni? Dei bomboni ci sei? Andiamo bene, andiamo, certo. Luca, ci sei? E io sono qua, dimmi tutto. Adesso sono con l'MD più 4, tutto aperto, bene, sta funzionando. Sì, benissimo. Guarda, adesso è a metà. Però va bene. Bella la radio, Sì, 3.900 stai usando. Sì. Va benissimo Natale. Gappa, dai, gli ho passato il il potenziometro che si muove solo l'affare, però già è saldato bene, là. Un attimo che lo chiudo. Hola, Luca. Qua adesso è a metà, adesso provo a mettere la manetta e mi dici se cambia qualcosa. Guardami, lo sto alzando, adesso è a manetta. Sì, già sale. Quindi va bene così, dai. va benissimo, non bene. Allora l'ho aggiustato. Pure questo è apposta, adesso lo chiudo e vamos a 30. Sono qua a 30, ma 40. Sì. Luca? Eia. Gara, da. Aggiustato anche questo. Hai visto? E questo è nuovo, l'MB più 4. Come? L'MB più 4, nuovo. Ehi, quello nuovo che avevo, l'altro l'avevo dato a coso, l'avevo dato, no, a Antonio l'avevo dato, quello che avevo io. E questo è quello nuovo che avevo in scatola. Ehi, a Bombolino. Ehi, l'ho dato a Bombolino. Questo qui comunque già funziona in diverba. A Panguarda. E anche l'altro. L'altro era... non riuscivo a mettere la portante molte volte con l'altro. L'ho messo a mano e l'ho aggiustato. È di lusso adesso. Ho visto che voi abbiate lui a farlo. Ehi, bisognava rimontarlo con prisura. Allora, di che? Questo ha cambiato il finale del mobico. Piano piano, mi dico pulendi, con la calma, senza fretta, se non ci riesco me lo continuo domani, ma penso di riuscirci, dai. Quello che ce l'abbiamo l'ho smontato. Vediamo un po'. Se riesco a farlo andare. Dovrebbe andare adesso col. Vabbè, va con l'altro anche, però. Non voglio che sattoli, pure se da 5 watt non mi interessa. Pensate che non sattoli. Ma la radio di questo com'è? Bella, forte? Sì, va bene, va bene. È a metà Emi, non è a manetta. Va bene da lì, lascialo così. E infatti non mi viene da trattare lì a manetta, dai. Adesso cambio apparato e ti faccio sentire l'altro. Chi è? Davvero? Chi è Daniele? Mi è bene. È vero, cari. Ciao Natale. Che si dice? Siamo a Natale, cacciamo a marzo, cazzo a Natale. Buonasera Natale, o da Natale siamo. Lascialo cantare che può uomano e quell'usca. Caspettina. Vabbè, ma come ti lo docco chi c'ha subito la portante? Non schiacciava la portante questo microfono. Già va bene. Anda bene me, da azzo di russo, proprio di russa vai. E beh, Lucarie. E beh, Daniele, qua siamo, mi sto cambiando un finale a un baracchino. Se riesco a portarla a 5 watt, che esca bene. Il 2078 lo sto mettendo. Gara. Bene. Modifica. Aspettando la cena, sai, no? Si conferma. Aspettiamo, dovrebbe essere quasi pronto. Nel frattempo ne faccio due chiacchiere. Sì, ma non fai andare le radio anche. E si conferma. Anche se l'ha acceso da quell'ora, è che stavo facendo altro. Ebbene, Natale. Oi. E cosa stai combinando? Ho aggiustato due microfoni da tavolo che erano messi male. Che la pagava. E l'antenna quando la metti? Ehi, belle giornate bisogna che facciano, sennò non è che mi venga bene, se no. C'ho già tutto qua per piazzarla. Che la pagava. E beh, Lucario, questo finale, mai ce l'abbiamo. Sì, credo che con una cazzo di sopra. Un tempo vivo, piano piano si fa tutto. Solo mi sa che ho perso la vittina, mi sa, Cazzarola. Cioè, più che la vittina è il dadino. Maroc Nord, cosa era? No, quello dell'Eurospin. Quello Jared. Perez. Ma io mi sto rullando una sigaretta, mi. Adesso ce la fumiamo. Grazie di essere. Cavagava. Che c'è qua comane? Rulla Natali, rulla. Ah, io ce l'ho un fumo, mi interessa. Rulla quanto vuoi. vedete se può comodo io no. Ma c'è una cosa poco fa, come si chiama? Claudio c'era anche, sparito. Sono dentro io e va via lui, adesso non mi può più vedere Claudio, vero è Claudio? No, che è diventato pizzaiolo, capito? È diventato pizzaiolo e stava facendo la pizza e quindi non è può dare retta a lui, quello c'ha da fare, raga, ruba, se no fa di beggio. Ah, retta sarà che è lui, mica la deve dare a me. Cavolo, meno male, c'è un guai. Adesso li saldo, vediamo un po', faccio la prova se funziona. Dopo ne andate, se no non posso fare la prova. Datemi il tempo di... Mi sa dare il finale, mi sono con il gruppo, troppo adesso. Davvero, adesso ci toponi pure. È tanto. C'era l'amico mio Gianfranco, se n'è andato. Adesso che gli volevo far sentire il microfono, Nisba. Vabbè. Vediamo un po'. Adesso è tutto a posto, tutto chiuso, uno e l'altro, tutti e due, sono a posto. E ne ho anche un altro, c'è anche un Turner più 3, però quello l'ho messo in una scatola, tanto apparati da poter usare, non ne ho, quindi lasciamo tutto com'è, gara gara. Ehi, già va bene Natali, già vanno bene. Guarda a vedere se amplifica questo qui. Daniele, guarda. Guarda così com'è. Molto più amplificata è così Natali, molto più alta. Ehi, vabbè, io la tengo così, dai. Al minimo. Anda bene Meda. Cava, cava, è vero Gadie, aiuto. Pura gaima, fate gaima, scettimo. Adesso ce l'ho lontano, una, cosa ci posso dire, una... Quanto è lungo il braccio e lontano il microfono. Ehi, già va bene lo stesso anche lì. Già va bene, già va bene. L'MB più 4, ho sentito la vedi? No Natali, qua l'ho sentito. Aspetta un attimo. Attacca Amanda. Daniele. Questa è bella, L'MB più 4 questo è lontano lo stesso. Cosa ti posso dire? La lunghezza del braccio mio. Sarà cosa ti posso dire? Un bel po', 50 centimetri sarà lontano, là. Poi a metà questo lo stesso. Ehi, ai, Natali, già va bene. Quella l'altro fa appena più cupa. Più cupa la fa l'altra. Guarda, adesso è a manetta l'MB più 4. Abbassa un pelo, Natali. Ehi, lo metto a metà così lo metto, da. E per sapere se amplificava. No, sì, già amplifica Natali. Va bene, va bene. E li ho messi tutti e due a posto, l'altro c'aveva i tasti difettosi, c'aveva. E non funzionava bene. Allora li ha aperti tutti e due e li ho messi a posto. Hai fatto bene Natali, hai fatto bene. Passato il tempo. E infatti questo è il 3009. Il Superstar. Quello 3009 è omologato, però è questo. Questo l'ho comprato omologato, infatti non ha tutti, c'ha 40 canali solo questo. Non l'ho aperto. Già si possono mettere i canali, ma vedi l'omologazione se lo tocchi. Ah, non è quello che c'ha le bande. Bande laterali e poi c'ha tutte le altre bande ABC, no? Oh, sta uscendo, prova. che cacchio si è combinato? Ma è successo? Duro sì. Guarda, rosso un sastro ancora? Eia. Sono sastro, 1, 2, 3, prova. Tu come lo senti? Sì, atta, Lucari, è così. Sembri FM, sembri, farti un'idea, quasi. Guarda, adesso 1, 2, 3, prova. Basta la radio. Guarda, adesso 1, 2, 3, prova. Solleva ancora. 1, 2, 3, prova. Sembra un po' meglio. Sembra un po', ma è saturo, è chiara, buonissimi. Ma questo è un altro microfono, è lui, sempre quello che stiamo usando più, sono un apparecchio. Un altro buracchino con un altro microfono, è il Mubicom, dai. Ah, ecco. Perché ha migliorato la modulazione del strato. Allora, così ho fatto, giusto? Sì. Un bel? È un bel, c'è tutto nasino, sì. Rosso. Guarda adesso come ha passato, 1, 2, 3, prova. Guarda adesso che l'ho passato, 1, 2, 3, prova. Va un po' meglio, Lu, però sei un bel asino. Era un microfono, capito. Però mi, Natali, confermi? Si conferma. E vabbè, comunque, come si dice, è comprensibile. Se lo faccio così, sì, Lu, va bene, va bene. Se metti come prima, no. E si conferma. Puntella, puntella. Bloccalo così. Va bene ragazzi, dai, che io vado a mangiare, sono qua, non ho più niente dopo. Ci ascoltiamo alle prossime o più tardi se coincide, dai. Cava, ciao, ciao. Entri dopo, Lucari è. È impegnato. Ehi, Natali, se dopo ci sei, dai, entro, là. E il capo, vediamo, là. Chi è la gamba? Salutami a Luca quando rientra. E buon proseguimento e buon tutto, dai. Altrettanto, ciao, buonasera, dai, buon tutto. Natali Rosmetro, grazie, Natali, saluta in casa. Guarda un po' adesso, ho migliorato qualcosa. Saturo, sì. E adesso Natali, 1, 2, 3, prova. Masso di radio. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Però è strana la radio, non è... Forse il microfono che non serve. Vabbè. Prova con un'altra mic. Non so, cosa è successo. Adesso è chiara. È chiara la radio, 1, 2, 3, prova. E là c'è la così. Ma è la batteria a scarica, mi Natali. Ah, può darsi, non lo so. Magari sono quei microfoni che hanno la batteria 1,5. E adesso stai uscendo bene, lascialo così. Ora. Cosa che ha preso? Cos'è, apparato è cambiato? No, no, sempre il Mubicom. Ah, ma se scendi bene, la caro così. Facendo bene, Chiara? Ehi. Guarda, adesso è saturo? No, negativo. Come è stato la radio adesso? Ehi, poco poco. Guarda se me lo sposto un po' dalla bocca, se va meglio, 1, 2, 3, prova. No, no. Allora, così confermi che è più chiara? Ehi. Cazzo. Allora, buono, cioè che cazzo non mi fa. Quel quattuomane che si mettono a toccare. E allora, L'ho fatto, 104. Mimì, quello col pipiriolo mi è entrato. Un po', mi senti? Sì, ti ascolto, ho trovato il film, 104. Sei fortunato, sì. Ehi, ascolta a me, io l'ho trovato invece, il 2078, gliel'ho piazzato, ma è sempre Satura. Satura, esci. Bene, si sente che sei stato fatto. Ascolta, lì ci dovrebbe essere un regolatore di potenza, se non mi ricordo male, in quel baracchino. Dovrebbe essere 1-4-4, mi sbaglio. Adesso è in H, adesso no, adesso è bassa potenza, ora un po', va meglio? Sì, bassa potenza sì, sei più chiaro, invece quando metti a maletta sei saturazione. Però non è un problema di finale. No, non è un problema di finale, infatti. È un problema dei... ci dovrebbe essere qualche resistenza lì che... in pratica da 5, adesso non mi ricordo com'era la cosa di preparazione. Vabbè, ma secondo me sono la farsa che non la Dugana. Questo fu subito, prima c'avevo più amore, adesso un po' meno. Dai, riprende che attacco l'altro. Ehi, d'accordo, d'accordo. Ale, la mia, la radio, com'è? 5. Buona è la radio, dai. Perfetta. Cara cava, ha aggiustato questo microfono che non aveva i tasti difettosi della portante. Sta scendo benissimo, sta scendo. A voglia. E anche l'MB più 4 mi ha aggiustato che era tutto messo male. E come mai? E quello era nuovo l'uovo, te l'ho dato nuovo l'uovo io. Come mai era messo male? E tutto messo male, adesso già pare che stia andando bene, ho aperto anche quello e l'ho aggiustato. Per questa parte qua c'è qualche... No, quando ce l'ha? Vabbè, neanche un anno. Tra l'altro quando avevi comprato le cose, l'omologato, che io avevo le... prima di andare in lineare, sono neanche 6 mesi, 7 mesi forse. E il potenziometro è che si muoveva e tutto, adesso è a posto, da. Ah, allora vabbè, vabbè, io ce l'ho uguale, ce l'ho dentro la scatola del MB più 4, conservato, anche perché c'è l'attacco della Midland, capito? Ho lasciato rigirare, l'ho lasciato. E anche questo è originale l'attacco, gli ho fatto una prolunga per attaccare al 3009, adesso te lo faccio sentire. Ok, vabbè, il 3009 ce l'ho anch'io, ma non ho messo le MB4, quindi... Guarda, questo è l'MB più 4. Sei basso di radio adesso? È lontano, e poi è a metà, non è a manetta, capito? Aspetta un attimo, che guarda, adesso è più vicino. Adesso va meglio. Adesso sarà una 20-30 centimetri lontano, dai. Sta scendo bene tu. Guarda se aumenta la modulazione, Antone. Adesso è a manetta. Adesso sì, è aumentato il mic gain. No, il mic gain è a manetta, il volume del microfono ho aumentato. A voi gliene conta. Mezzo gai, adesso lo rimetto a metà. Così a metà. Adesso va bene lo stesso. Quando lo metti a voglia di amplificare le MB più 4. Qui ce l'ho, dopo ce l'ho, qua a casa. Ma con grafio c'è. Sì, anche questo è quello nuovo. Quell'altro che avevo l'ho dato a coso, a Antonio l'avevo dato. Ah, capito. Ma io ce l'ho nuovo e... l'avevo agganciato all'FM500S che pure regalato, con microfono F10, capito? E io sono cercato di agganciarlo alla ZX40, l'MB più 4, adesso vediamo un po' di fargli i collegamenti, se ce la faccio domani. Così gli collego il microfono amplificato, almeno esce bene da parecchio modulato. Non è andata bene meno, dai. Questo è il 3009, adesso metto l'altro. Già va bene, già va bene. Cara cara, questo è l'altro. Ma voglio che c'è bene. Chiamando, ho chiamato Fabietto per se risponde. Evidentemente non è ancora rientrato. Ho chiamato una mezz'oretta fa. Sul canale 6 PMR, tanto su 7 ci sono quelle dell'ospedale. Vabbè, comunque niente, l'ho conservato, 1969, perché mi hanno detto che sono introvabili. Non si trovano, no. No, gli originali non li trovi, Luca, trovi solamente quelli cinesi, non servono a niente. Ce l'ho anch'io 1969, l'ho trovato in un baracchino che ho qua smontato. Meno male, sono portate le pesantezza, sperate. Ma infatti io non lo tocco a nessuno, neanche io, se vi fossi via a me, adesso la macchina lo lascio così, non che non la chiudo, so, domani me lo chiudo, e lo conservo, so? Vedi adesso, non rompo la cugliuppa, non la calibra, bene, sono andato. Sì signore, lei va sempre bene, cara cara. Sicuramente avete positivo, prete. Comunque c'ho anche i tremerini nel qualcosa, però non vedo la sillabo. E questo qua, nella 34. Perché se si vede la sigla, ma non si vede, fare i cataruggini di barini. Non so come fare. Se c'era qua. No, 20K. 20K, poi. Non si vede, non si vede, non si vedono. Ma lo sai quanto c'avevo la glicemia? Questo è il 2 e niente. A 133. È buona! Ho cenato due ore fa. E quindi? Adesso cena. Ehi. Ma tu fai l'insulina fai? Ehi, quella per la notte, quella lenta, no? Sei unità ne ho fatte. Come la fai? Nella coscia o nella faccia? E un decapiteggio. Ma poi nella coscia, prima una e poi nell'altra, capito? Adesso tipo stamattina gliel'ho fatta la coscia a destra e domani la coscia a sinistra. Che ragava, io me l'ho fatta nel braccio. Non so l'equivalenza di questi tremerini. Questi qua ne ho 1, 2, 3, 4. Prima da lì, ma è pure a 4, poi ce n'è uno qua, 5, RV501. Poi c'è vedere. RV103. RV202. Questo qua, si vede un che. Questo, R21. No. 104 non c'è. Oh, 103. E a conferma di RV103. Metti K. Questo, RV101. Quello che serve a me non cerca, mannaggia. E cosa stai cercando? Il trimerino, quelli piatti, quelli che hanno l'ambirino, sono bassi bassi, e 104 mi serve, RV104. Mi hai già disgurato su un sito, tanta lì. Come dici tu, se vuoi più del come te posso amare. Ecco qua. Sì, qua c'è il commutatore. Questo l'avevo spaccato. Perché non mi è rimasto in mano il portafusibili del 3009 ieri? Ne le ho messo uno così, adesso me lo compro nuovo, perché questi non servono, che si rompono. Si rompe la letta che lo blocca e non chiude. Ho capito Natale, mi sono spostato, cosa ha detto? Il portafusibili del 3009 si è rotto. La letta che lo blocca a me e non chiude. Ah, vabbè. No, io già ne ho uno di scorta. Nel caso che mi si rompa ce l'ho già, capito? E niente, ce l'ho di scorta, non ce l'ho buttato. Vabbè, non sono da buttare comunque. Aspetta un attimino che mi devo mettere una medicina. Ok, sto facendo una terapia. Così, la cosa più bassa, ma metto un nome esatto, vabbè. Una cura sta facendo, va. Cara cara, ti saluta Daniele che è andato a cena, ha detto se dopo entra anche lui. Guarda, sono così ancora, se mi pongo un pigiama, mi sdraio, boh, ciao, sono fregato. E anche io sono così, ma vediamo un po'. Ah, poi io ce l'ho di quello che serve a me, però è 103. c'è scritto sopra 20k. Aspetta, 103 c'è scritto nel trimmer, non c'è scritto sopra il trimmer, il discorso è quello, o a fianco. Ah, allora no. Perché quello 103, 104, 102 è scritto sopra, non sotto. Hai capito? Il discorso è quello. Ah, ho capito, ho capito. Allora niente. Allora niente da fare. Devo procurarmi un 103, ma un 104. Invece quello del... sai che non era, l'ha cambiato Antonio Riserva, ma va benissimo, è nero, di quelli grandi, un po' grandetti rimangono. Quello lì però è della, del probabilmente dell'amplificazione. Sì, vabbè, quando gli ho succedo anche io, non è, sono tutti lì, lì sopra, c'è scritto 104. Io quando ho calcolato c'è scritto, sono un modello vecchio, in pratica è scritto, sono bianco, c'è scritto 103, 104, eccetera, eccetera. Capito? Però nello stampato c'è scritto R, è una cosa diversa, capito? A me mi manca per dire il 231 la resistenza, quella che pilota il modulatore, che mi dà la tensione alla... per lo splitter in trasmissione e ricezione, capito? La modulatore e la limitazione da tutti e due, e la MFM e basta, la manovrale è a posto, quella licenza lì e poi cambiamo anche col transistor, non solo l'altro. Ascolta una cosa invece, c'è anche questo problema qua, che segnali forti li sento un po' strani, tipo Natalino, Franco, non li sento chiari chiari col Mobico, ma con il Typhoon. Cosa c'è da toccare? Chiaro, in che senso? Stato li senti? Se ti ricordi ti era capitato già una volta a te quel difetto, avevi cambiato l'integrato, quello che c'è rettangolare, se non mi ricordo male, e, quello che c'è nell'apparecchio. E ricevevi tutte le persone chiare, se non mi ricordo male, io ti parlo di 3-4 anni fa. No, mi segnali forti, tipo a me ti sento bene, poi c'è tipo Antonio Bombo che arriva forte, non lo sento chiaro chiaro, Franco lo stesso, lo sento tutto bum, capito? Vabbè, c'è Saratino, lo sento bene, benissimo. Sì, perché sono troppo forti e ti mandano in saturazione l'audio. Sì, ma questo problema mi ricordo che Luca l'ha avuto già una volta e aveva cambiato l'integrata, aveva cambiato. Perché i segnali troppo forti e l'avevano in saturazione e non capivano a fanculo. Allora l'aveva cambiato l'integrato e li sentiva tutti chiari. Adesso io non ci vado a fanculo qua, ma... aspetta un attimo, più la pila te lo dico, quello integrato, quello che sto parlando io, che è orizzontale, che è al centro. Ti parlo di quello che se ti ricordi bene l'avevi cambiato una volta tu, a un apparecchio, perché ti faceva lo stesso effetto. Sì, no, vabbè, il discorso è che se gli attiro li sento bene, capito? No, non ho cambiato io di questi, se mi ricordo io, 4 anni fa è impossibile, forse di più, per un baracchino, non mi ricordo, boh. E vabbè, pazienza. Se non basta che abbassi le fighe appena li senti bene, qual è il problema? Aspetti della pila, ti dico quell'integratore che avevi cambiato, aspetta un attimo. Allora, il telefono è IA 10-324. Guarda che se tu è lì, in pratica c'è scritto IC 1. E lo sta fatto. Vabbè, se chiudo, pompo. Domani, com'è? Dimmi. IA 10-324. Sotto c'è scritto, questa sigla qui c'è scritto 0-52-266. Quello avevi cambiato, mi ricordo che avevi cambiato quello, che una volta ti c'era bruciato, che avevi parlato di un po' di anni fa, che avevi risolto il problema in pratica, perché sentivi tutte le persone sature. Arrivate a questi professionali, sentivi tutto quanto è sature, capite? Avete cambiato quell'interatto e sentivi tutti chiari. Di questo me lo ricordo benissimo. Quindi figurati, l'interatto che c'è, in pratica c'è scritto IC 1. Aspetta, che arrivo troppo forte, cazzo, ho capito, di A mi hai detto. Ripetilo piano. Ho detto B, A, con la B. B come bravo, A come alfa, 1, 0, 3, 2, 4. 1, 0, 3, 2, 4. 3, 2, 4. Allora, via, 1, 0, 3, 2, 4. Sì, esatto, integrato che tocco orizzontale, c'è scritto, nello stampato, IC, 1. La monte in pratica il 2009, il iPhone, il 2006, il Connex 4005, eccetera, eccetera, è stato un eco come ce l'ho io, e... hai capito? Quello in pratica è la ricezione. Tutto lì. Però mi sa che non c'è, allora integrato, via 10, 10, 10, 3, 2, 4, quello che c'ho io è così, sto parlando di Saturneco, poi magari viene la sigla da te, comunque c'è, IC 1, rimane al centro dello stampato, vicino c'è una bella frequenza, proprio sotto, e sopra ci sono delle resistenze, ci sono, capito? E l'interato, quello è interato che avevi cambiato tu una volta, a un baracchino, ma ti parlo tanti anni fa, perché sentivi tutti in saturazione, e non sapevi dove volevo, avevi cambiato quello e avevi sistemato il problema, perché sentivi poi tutti quanti bene. Me lo ricordo ancora. Ma aspetta, là c'ha 2, 4, 7 piedini c'ha, 7, 14 piedini. Aspetta, te devo aprire ragazzo, se no aspetta. Comunque l'ho trovato, dai, su eBay costa 4,56 più 2,42. Circuito integrato, via 10, 3, 2, 4, ROM, via 10, 3, 2, 4, A, B 14, vabbè, 14 piedini, A, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, già è quello. Sì, esatto, bravo, quello di S. Non capisco il perché, quando attivo mi sento bene, è quello, che c'è la cassa, ma no, non è che ho la cassa. Prova a cambiare, con le cuffie te la accorgi subito, non c'è bisogno di cambiare la cassa. Agganciali le cuffie e vedi se senti bene. Quindi ho messo una cassa esterna, vabbè, si è conservato, bum bum, domani lo provo. Io ho messo una cassa esterna e lo farò uguale, più avanti, peggio. Prova le cuffie, se vedi che ti fa la stessa cosa, allora è quello. A meno che non sia integrato audio, controllati l'integrato audio con la pettine. Non sai che magari ci sia qualche condensatore gonfio. Ne sbaglio. Sì, a farlo così, dai. Allora si conserva il saldatore. Prendiamo da mezzo le scatole. Questa è un'altra, io ci stai già drummito. Già sono qua, tutto per te. Ma Pomponino non è entrato, strano. Vuol dire che è strano. Ma questo è il rimbugolo spray però, perché c'ho il naso che si sta chiudendo. Oggi era la cosa, Pomponino. Al Conti. Se non usa lo vostro spray, ma io ne ho bisogno, sennò sto... Quel cazzo faccio a respirare. Si chiude il naso. Praticamente devo fare adesso degli accertamenti per quanto riguarda, c'ho anche la rinite, pensando a dubbi azzurri. A proposito, allora che mi sono commentato, mi controllo che cosa, il dato CD. Adesso mi controllo che ho fatto l'attacco. Io sono curioso. Mi prendete un attimo. Eia, d'accordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Hola. Ciao, che scherzo mi basta. Hola, hola, hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, fa un culo adesso. Immaginavo io. Non sta perfetto, non sta cosa. Ora, ora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sembra il microfono di quelli delle cose. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, però. Uscirebbe giù che giù, giù che giù, giù che giù. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, prova. Cari fratelli, sorelli. Se funziona. Ma sapete, mi sa che non fate più nuda.